Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Homage to the Buddha, the Blessed Noble, and fully self enlightened. Omaggio al Buddha, al Beato, al Nobile, e al pienamente autoilluminato. Now I like to chant that at the beginning of a talk to remind myself that I'm supposed to be teaching the Buddha Dhamma, not Bodhidhamma Dhamma. Mi piace fare questa recitazione prima di iniziare un discorso per ricordare a me stesso che io sto insegnando il Buddha Dhamma, non il Bodhidhamma Dhamma. It's very easy to do, Una cosa molto facile da fare. So tonight, what I want to do is really just put this in, put our work in context of daily life. Quello che vorrei fare stasera è mettere il nostro lavoro nel contesto della vita quotidiana. I don't think there's a beginner here now, is there? Credo che qui non ci sia un principiante. No. Yes, but not to Buddhism, no. They've all escaped. They've run away. Sono tutti scappati. What to do? So, so it's a revision, shall we say? Quindi diciamo che questo è un ripasso. Mm. When it comes to the technique, we're really talking about the last three of the Eightfold Path. Quindi per quanto riguarda la tecnica, noi ci riferiamo agli ultimi tre aspetti del dottuplice sentiero. Le tre parti. Eightfold Path. Yeah. Right effort, right concentration, right awareness. Quindi il retto sforzo, la retta concentrazione e la retta consapevolezza. Well, when I say that it's only those, it's basically that the meditation is developing those three as a technique. Quando dico che si tratta di questi tre, voglio dire che la meditazione sviluppa questi tre aspetti come tecnica. So, in daily life you may find it useful to use noting when you're doing something physical. Quindi nella vita quotidiana potreste trovare utile usare questa etichetta mentale quando fate qualcosa di fisico. So I know people who do it when they're, you know, washing pots, gardening, when the mind is wandering a lot. So che ci sono persone che lo fanno quando lavano le pentole, fanno del giardinaggio, quando vedono che la mente sta divagando molto. But obviously you can't use it when you're making a telephone call. Ma ovviamente non la si può usare la nota mentale quando state facendo una telefonata. Going slow, this is also, you know, it's just slowing down in life. Questo rallentare, beh, questo si può fare, non si tratta di rallentare nella propria vita. It's not that you can't do something quickly, it's just you have to take the rush out of it. Non è che non possiate fare qualcosa velocemente, è solo che dovete togliere la fretta dall'andare veloce. Nicola was also a Zen student. I don't know what his experience was, but my experience was that everything was done at about 2,000 miles an hour. Nicola è uno studente Zen, non so quale sia la sua esperienza, ma la mia era che tutto quello che facevamo andava fatto a 200 miglia all'ora. So I remember my first day, and the abbot took his porridge and passed it along. Mi ricordo il mio primo giorno quando l'abate ha preso il suo porridge, sapete tutti cos'è? Okay. La pappa d'avena, diciamo così, poi l'ha passato agli altri. And I took my porridge, you see, and handed it on. Anch'io ho preso il mio, poi l'ho passato. I was taking my time, I was, you know. Io stavo prendendo il mio tempo. And I took a bite. Ho preso il mio boccone. Ding! Bell went. Whoa! Everybody's out. È suonata la campana e tutti fuori. Whoa! Così ho fatto in fretta. Velocemente ho finito il mio fuori. Poi. And I always remember that, you know. Me lo ricorderò sempre. And we did everything with this tremendous speed. E facevamo tutto con questa velocità incredibile. Yeah. I think they it was early days for the order. I think they slowed down a bit now. Questi erano i primi i tempi antichi, diciamo, dell'ordine. Adesso forse hanno rallentato un po'. Yeah, and it was the teaching was that when you did something fast, you had to keep your mind there. If your mind slipped, you dropped the porridge. You did something. Quindi l'insegnamento qui è che dovevi andare velocemente per tenere lì la mente, perché se invece andavi troppo lentamente avresti fatto. No, if your mind wandered a bit, you dropped the porridge. Sì, perché se la mente avesse divagato, allora avresti fatto cadere il porridge. So, but even so, the teaching also was to do it quickly, but without that. Rush without the without that pressure. Però l'insegnamento era di fare velocemente, ma senza questa fretta, senza questa pressione. So I think the stress becomes more obvious when we're doing something at a more gentle pace. Quindi penso che lo stress diventa più ovvio quando facciamo le cose ad un ritmo più lento. You can feel the sort of push. Perché si sente questa spinta. And if you keep doing it at an ordinary pace and you're aware of that push, you see, but you keep doing it with your calm attention, then of course you're undermining this stress business. Però se uno riesce a farlo in maniera tranquilla, ordinaria, diciamo, ed è consapevole però di questa spinta che vorrebbe farlo andare più veloce, allora in un certo modo si sta intaccando proprio questa abitudine alla fretta. And the business of stopping, you know, and noting and recognizing what the next intention is, that's crucial, I think. È questa idea del fermarsi e del notare l'intenzione, no, per l'azione successiva. Questo è un aspetto cruciale. You see, after a phone call, if you stop, there'll be some sort of after effect. Dopo una telefonata, se vi fermate, ci sarà una specie di effetto successivo, effetto alone, non so in italiano come si dica, comunque un effetto che viene dopo, postumo. Successivo. You might be excited, you might be saddened, you might be irritated. Magari siete eccitati o tristi o irritati. You might even be calm. Potreste anche essere calmo. And it's just recognizing that, you see, waiting for it to just settle, and then the next intention. E quindi si tratta di riconoscerlo, aspettare che si stabilizzi un po', e poi sorge l'intenzione successiva. And then you don't carry this irritation or sadness or excitement into the next action. E allora non trasferite questa irritazione, eccitazione o tristezza nell'azione che viene dopo. And we will do that when we realize how much energy our emotional life drains from us. E questo lo faremo nel momento in cui capiremo quanto energia questa vita emotiva ci risucchia. One of the first effects on me was to have so much more energy at the end of the day. Uno degli effetti di questa pratica su di me è che avevo molta più energia alla fine della giornata. Usually I'd be quite exhausted at the end of a day's work, but by practicing like this, I didn't feel so bad. Una volta ero solito essere molto stanco alla fine di una giornata di lavoro, ma dopo aver praticato in questo modo le cose poi sono migliorate. That's the going slow, the noting, noting intention, that's it. Quindi andare lentamente, il notare l'intenzione. So these things, you know, we can take into daily life. It's not as though it's just for a retreat situation. Sì, queste sono cose che possiamo portare nella nostra vita quotidiana, non sono cose che si possono fare solo in una situazione di ritiro. The Eightfold Path begins with right understanding, and then the next one is right attitude. Quindi lo tutto il sentiero comincia con la retta comprensione e quello dopo è il retto atteggiamento, la retta attitudine. No matter how great our understanding is, if it doesn't transform into an attitude, it remains sterile. Per quanto grande sia la nostra comprensione, se non si trasforma in un'attitudine, diventa sterile. We can intellectually understand interconnectedness, interdependency. Possiamo capire intellettualmente l'interconnessione, l'interdipendenza. And perhaps we can actually have a deep insight into it. E possiamo effettivamente avere anche un insight profondo in questa questione. But if this doesn't express itself as an attitude, then it remains somewhat sterile. Ma questo se non si esprime in un particolare atteggiamento, un'attitudine, diventa in un certo senso sterile. And of course, where it leads us to is love, sympathetic joy, compassion, all the virtues. Ovviamente questo ci condurrà all'amore, alla gioia compartecipe, alla compassione, insomma tutte le virtù. I think we can be sure that if the insight is deep enough, it will affect the attitude. Possiamo essere abbastanza sicuri che se l'insight è abbastanza profondo, questo influirà sull'attitudine. In fact, going back to Zen, they say that with wisdom, compassion arises naturally. Tornando allo Zen, loro dicono che con la saggezza la compassione sorge naturalmente. There was a Zen teacher in London, Myokyo Ni was her name, and she said that practicing Metta was a complete waste of time. C'era un'insegnante Zen a Londra, Myokyo Ni, è una donna, che sosteneva che praticare la Metta fosse una completa perdita di tempo. She had this absolute faith that if the wisdom was correct, it would naturally express itself. Perché aveva questa idea, che se la saggezza fosse giusta, completa, eretta, allora si sarebbe espressa in maniera naturale nella compassione. So now, just going back to this business of right understanding, we have various models, spiritual models. Quindi tornando a questa retta comprensione, noi abbiamo vari modelli spirituali. Or at least we can talk about, say, three models. Possiamo forse parlare di tre modelli. In the Christian model, as I understand it, there is the devil and temptation. Quindi nel modello cristiano, così come lo intendo io, c'è il diavolo, che rappresenta la tentazione. And there's God with certain rules and regulations which we ought to obey. E c'è un Dio con determinate regole a cui noi dobbiamo obbedienza. And the human being is stuck, is sort of in the middle, tempted to go with the devil, but wanting to go towards God. L'essere umano è un po' preso in mezzo a questi due estremi, è tentato di andare col diavolo, però ha la volontà di stare con Dio. Although in Christian literature the devil comes out as particularly evil, I think he's more a tempter. Anche se nella letteratura cristiana il diavolo viene fuori come il male, la rappresentazione del male, in realtà io penso che sia più un tentatore. Again, my understanding is this is definitely so in Islam. Sicuramente è così nell'Islam, per quanto ne so. So when the Ayatollah calls America the great Satan, what he's saying is that America is this culture which draws us away from God by all its sensual delights. Quindi quando l'Ayatollah dice che gli Stati Uniti sono il grande male, quello che sta dicendo è che la cultura americana è quella che, attraverso tutti i piaceri sensoriali, allontana l'uomo da Dio. And in Buddhism there is this figure of Mara, the evil one. Nel buddismo c'è questa figura di Mara, il malvagio. And he also plays this role of drawing us towards sensual pleasure. E anche lui ha questo ruolo di attirarci verso le piaceri sensoriali. You might know that after the Buddha's liberation, Mara sent three daughters to tempt him. Saprete probabilmente che dopo la sua liberazione Mara ha mandato le sue tre figlie a tentarlo. If you don't know, this is an opportunity to guess. Se non la sapete questa storia, questa è un'opportunità, l'occasione per tirare a indovinare. Okay, the first two are pretty straightforward. Le prime due sono abbastanza dirette. So the sensual pleasure and sexual pleasure. Quindi le prime due figlie rappresentavano il piacere sensoriale, diciamo, e quello sessuale. I wonder what you think the third one was. E il terzo che cos'era? La terza figlia, che tipo di tentazione? If you know, you can't say. Se lo sapete, non dite. So, have a guess within yourself what the third one might be. Quindi provate a indovinare dentro di voi che cosa potrebbe essere la terza figlia di Mara, che potrebbe rappresentare. Sì. The third one was boredom. Terzo era la noia. Ah, sì, la noia. It's boredom, remember, it's boredom that drives you to seek pleasure. Perché ricordate che è la noia che vi porta a cercare il piacere. And boredom is caused because the pleasure no longer gives you the same intensity of delight. E la noia sorge perché l'esperienza piacevole non vi dà più lo stesso livello di delizia, di eccitazione. So these two revolve around each other. Sensual pleasure, boredom, sensual pleasure, boredom. Quindi è come se come se girassero una attorno all'altro, no? La noia, piacere sensoriale, poi noia. And that's the motor. Se seguissero, ecco. Sì, and that's the motor of the consumer society. Ed è il motore della società consumistica. Freud seems to have put this in more psychological language, you might say. Freud pare che l'abbia messo in un linguaggio più psicologico. So instead of talking about the devil, he talks about id. Invece di parlare del diavolo, parla di del id. This sort of animal nature within us. Questa natura animale che c'è dentro di noi. And God turns into a superego. Dio invece viene rappresentato dal superio. And the ego has to negotiate a path in between these two, hoping to find some happiness. L'ego deve trovare un compromesso tra questi due estremi per cercare di trovare un po' di felicità. According to Freud, he couldn't see the end of unsatisfactoriness. Secondo Freud non c'era una fine a questa insoddisfazione. Lui non riusciva a vederne una. The Buddhist model, I think, is somewhat different. Il modello buddista è un po' diverso. Although it does have these elements, as we'll see. Ha anche questi elementi, come vedremo. Our position is that we, because of delusion, we've made a mistake and we're creating our own suffering. La nostra idea è che a causa di un'illusione abbiamo fatto uno sbaglio e quindi stiamo creando la nostra sofferenza. And the Buddha gives directions on how to investigate our situation. Il Buddha ci dà indicazioni su come indagare o investigare sulla nostra situazione. Promising a good result. E ci promette un buon risultato. And our job is to discriminate. Our job is to investigate and really discriminate as to what is good for us and what's not so good. Il nostro lavoro è proprio discriminare, investigare e capire cos'è che ci fa bene e cosa ci fa male. So I think it's a slightly different approach. It's the approach of knowledge. approach of understanding, excuse me. È un approccio diverso, è un approccio di comprensione. So that's why he begins with this right understanding, right attitude. È per questo che comincia nel duplice sentiero con la retta comprensione, il retto, la retta attitudine. But then, when we translate this into action, we find it very similar to any other religious form. Quando la traduciamo in azione, vediamo che è molto simile a altre religioni. So the first is right speech. No? Quindi il primo è la retta parola. Mm. So right speech is always putting what you don't do on the presumption that when you don't do what you ought not to do, you will do what you ought to do. So, okay. Make it up. The Buddha always gives us what not to do. Il Buddha ci dà sempre quello che non dovremmo fare. On the presumption that when we don't do what we ought not to do, we will do what we ought to do. La supposizione è che se non facciamo quello che non dovremmo fare, faremmo quello che dovremmo fare. So we have to be truthful. You see, we mustn't tell lies. We have to be truthful. Quindi, quindi il fatto di non dover dire bugie, non dover mentire, fa sì che dobbiamo essere sinceri. This business of not telling lies becomes very subtle when we move towards exaggeration. Questo non dire bugie diventa molto sottile quando entriamo nell'ambito della esagerazione. So it's a piccolo bugia. Una piccola bugia, una white lie. Then coarse speech would make our speech beautiful. Quindi, not doing coarse speech. Sì, quindi ci sono i due cose in contrasto, diciamo. Il fatto di non usare un linguaggio volgare, diciamo, fa sì che il nostro linguaggio sia bello. The next one is often very difficult for us to follow. Quello successivo è molto difficile per noi da seguire. And that is slander. E questo è l'insulto. Mm. So we might say something which insulto. No, no, it's not quite, is it? No, slander means to talk bad about something. Slander. Slander. That's right. No, yeah. I don't know if insulto is the right. Yeah. When you speak offensive language towards somebody. No, it's no. It's talking badly about somebody. Yes. Parlare male di qualcuno. Mm. Insultare. Insulenza. No. Vabbè, diciamo così. Parlare male degli altri. Sì, parlare male degli altri. And we can. Calunnia. Calumny. Okay, I think abbiamo capito il concetto. So we can actually say something which diminishes another. Per esempio, possiamo dire una cosa che svalorizza l'altro. But we can do it in very subtle ways. Ma lo possiamo fare in modo molto sottile. You know, just raising the eyebrows. Per esempio, solo sollevando un sopracciglio. This does bring us into a strange place because sometimes you have to say something about somebody which is not so good. E questo ci porta in un luogo un po' strano perché a volte dobbiamo proprio dire qualcosa a una persona che non è così bella. And so therefore again you have to be careful of your intention. E qui dobbiamo stare attenti alla nostra intenzione. I mean, to take a very obvious situation which happened to me some years ago. Per fare prendere ad esempio una situazione che mi è capitata un paio d'anni fa. I knew this person who had been convicted of pedophilia. Io conoscevo questa persona che era stato condannato per pedofilia. It wasn't serious pedophilia, but it was pedophilia. Non era una cosa seria, però era pedofilia. And I heard that he was going to work as a gardener in a place where there would be children. E io sapevo che lui sarebbe andato a lavorare come giardiniere in un luogo dove c'erano dei bambini. It was a sort of school. Una specie di scuola. So then, you know, it wasn't it wasn't my problem, it was somebody else's problem. They came to me for advice. Quindi non era direttamente il mio problema, era il problema di un'altra persona che però si era rivolto a me per un consiglio. So at the time what I said was, what is your intention? See? Al momento io ho chiesto a questa persona qual era la sua intenzione. Was it to slander and create a bad name for this person? Quindi era per parlare male, creare una cattiva reputazione a questa persona? Or was it to protect children? O era per proteggere i bambini? So if your intention is to protect children, then that will guide you to actually disclosing this person's problem. Quindi se la tua intenzione è quella di proteggere i bambini, allora è una retta azione quella di svelare il passato di questa persona, il problema di questa persona. Even though it might create a bad name for him within a small circle of people. Anche se questo avrebbe significato comunque creare un cattivo nome, una cattiva reputazione per questa persona nella comunità. So, you know, these are very, there's nothing, it's very rare in our lives to have something so clearly black and white. Quindi è molto raro nella nostra vita avere una situazione così chiaramente o bianco o nero. And the final one, of course, is useless speech. E l'ultimo tipo di linguaggio errato è quello del linguaggio inutile. Just speaking for the sake of speaking. Quando si parla così, per il gusto di parlare. Just a lot of rubbish. Un sacco di spazzatura. So this is, so it's a case of recognizing that when one is doing that, and just move towards silence. In questo caso è sufficiente riconoscere quando uno sta facendo questa cosa e stare in silenzio. On the other hand, again, we haven't got to be hard about this. Ma anche qui non è che dobbiamo essere duri a questo riguardo. Sometimes when you meet somebody for the first time, or you're standing by a bus stop. In England anyway, we always talk about the weather. Incontri una persona per la prima volta, oppure sei lì che aspetti l'autobus e vuoi insomma fare un po' di conversazione. Almeno in Inghilterra noi parliamo sempre del tempo. But whenever we speak about the weather or about anything else, it's always whinging. Whinging, complaining. Però ogni volta che parliamo del tempo siamo sempre molto lamentosi. I don't know whether you know this, but when prisoners were sent to Australia, banished to Australia, they were known as prisoners of Her Majesty. His Majesty. Sapete quando i prigionieri inglesi sono stati mandati in Australia, Exiled, banished. Sì, erano proprio stati esiliati, no? Banditi dall'Inghilterra, mandati lì, erano chiamati prisoners of prigionieri di Sua Maestà. Which comes as a word POM. E l'acronimo di questo è POM. POM. Prisoners so, of Her Majesty. Or His Majesty. POHM. Yeah, see, POM. POM. So, in Australia, where the English people are so known for this whinging that they're called whinging POMs. Quindi in Australia gli inglesi sono appunto riconosciuti per questa abitudine a lamentarsi sempre e si chiamano quindi whinging POMs. Le POM chi whinge. So, so it's an unfortunate national characteristic. È una caratteristica nazionale un po' sfortunata, diciamo. If I find that if when somebody talks to me like that, I actually say something not whinging, it's something which is praiseworthy. Se parlando con una persona di questo genere, così un po' lamentosa, io dovessi dire qualcosa contrario, cioè è più vedere il lato positivo delle cose. They tend to go into shock. Tendono a entrare in uno stato di shock. They're not used to it. Perché non ci sono abituati. So right speech is perhaps the most difficult of things to keep because we're always speaking. E quindi questa retta parola è forse la cosa più difficile da mantenere perché stiamo, cioè perché parliamo continuamente. And it of course relates to the way we talk in our heads. E ha a che vedere anche col modo in cui noi parliamo nella nostra testa. Mm. So if a person uses coarse language in their heads while they're talking to somebody in their imagination, it'll come out in somewhere. Quindi se una persona usa questo linguaggio scurrile, diciamo, nella sua testa mentre immagina di parlare con una persona, ovviamente uscirà poi in questo modo. Mm. Then we have right action. E poi c'è la retta azione. And this again is put in the negative with the presumption that there's a positive development. Anche questo viene espresso al negativo con la supposizione che o la speranza che sarà messo in atto in positivo. Mm. So not to harm any living beings should drive us towards caring for them. Quindi il fatto di non fare del male agli esseri viventi dovrebbe portarci a un atteggiamento di cura per loro. Mm, not taking what is not freely given should move us towards generosity. Non prendere ciò che non ci è dato dovrebbe portarci alla generosità, a sviluppare la generosità. And not misusing our sexual powers should move us towards beautiful relationships. Quindi il fatto di non usare malamente i nostri poteri sessuali, diciamo, la nostra energia sessuale, dovrebbe portarci a creare delle belle relazioni. And then a very interesting one is right livelihood. E un altro di questi è la retta, i retti mezzi di sussistenza, o modi di vivere. Mm. Because you would think it would be included in right action. Perché sembrerebbe dover essere incluso nella retta azione. Mm. But if you think about what the effect of your work has upon you, you'll see it as a, you know, it is a major factor within our lives. Ma se vedete gli effetti che ha il vostro lavoro nella vostra vita, nel vostro modo di vivere, vedrete quanto è un fattore importante nella vita, appunto. So the qualities that you need to be a policeman, a policewoman, is different from a nurse. Le qualità necessarie per fare il poliziotto o la poliziotta saranno diverse da quelle necessarie per fare l'infermiere. So you see, your job, the work that you do, develops certain qualities within you. Il lavoro che fate sviluppa determinate qualità dentro di voi. Mm. And when we recognize that, then we see work as a vehicle towards our liberation. E quando questo riusciamo a vederlo, allora considereremo il nostro lavoro come un veicolo verso la liberazione. So one thing that most of us will experience is this problem of boredom. Una cosa che molti di noi forse sperimenteranno è questo problema della noia. So at first when we begin a job there's a certain interest in it, a certain excitement. And then of course most jobs are very repetitive, one way or the other. Quindi all'inizio di un lavoro c'è un po' di eccitazione, un po' di interesse, però poi con l'andare del tempo c'è una sorta di ripetizione. And then the boredom sets in. E poi comincia la noia. See? And then we start complaining. E poi cominciamo a lamentarci. So somehow we have to find an attitude which we can develop through which is always going to put us in a right relationship to our work. Quindi dobbiamo sviluppare un atteggiamento che ci porti sempre ad avere una giusta relazione col nostro lavoro. And I think the main one, the core one, is a sense of service. E quello principale, quello più importante, è avere un senso di servizio. Mm. So you're not doing it just for yourself, you're doing it for the benefit of others. Quindi non lo state facendo solo per voi stessi, lo fate a beneficio degli altri. Mm. And when you see the benefits of what you do, no matter how small, then there is that sort of reward for our service. Quindi quando vedete i benefici che avete prodotto negli altri, allora riceverete una sorta di premio, vedrete il premio per il vostro lavoro. Yeah, a sense of service should overcome the boredom of repetition. Quindi questo senso del servizio dovrebbe permettervi di superare la noia e la ripetitività che diventa noia. Even a job which is extremely repetitive, for instance, on a production line. Per esempio anche un lavoro che è estremamente ripetitivo, come una catena di montaggio. Even that can become, you know, with a good heart, a sense of service. Con un buon cuore anche questo può diventare un senso, può sviluppare un senso di servizio. And by putting your attention on what we're doing, it does increase our sense of concentration. Il fatto di mettere la nostra piena attenzione su quello che stiamo facendo può sviluppare la concentrazione. And that in itself will bring a certain quality of joy to the heart, just the concentration. E quello di per sé può portare una qualità di gioia nel nostro cuore, la semplice concentrazione. This we learn from watching the breath. E questa è una cosa che impariamo osservando il respiro. Except for those types of works which are necessarily immoral, then any work we do can be a vehicle, can be a spiritual vehicle. Quindi a parte quei lavori che sono chiaramente immorali, qualsiasi lavoro noi facciamo può diventare un veicolo spirituale. You know, I'm doing this Camino Assisi, following the path of St. Francis. Sapete che sto facendo questo cammino di Assisi, non seguendo il sentiero di San Francesco. And every so often I read a little bit about the early Franciscans. Ogni tanto leggo qualcosa su i primi francescani. So at first the early Franciscans actually went, they would do menial tasks, they would go and work as well. E i primi francescani andavano a lavorare, facevano lavori così pratici. They'd actually go and work. So I think even St. Francis knew the importance of actual doing things, working, you know. Quindi San Francesco conosceva l'importanza del lavoro, di fare qualcosa. So that really is the path as the Buddha lays it down in the Eightfold Path. Questo è il sentiero, così come viene illustrato nell'ottuplice sentiero. And don't forget these three ending ones, the right concentration, right effort, and right awareness. That's in everything we do, when it's done attentively. Ricordate queste ultime tre parti, cioè la retta concentrazione, il retto sforzo, la retta consapevolezza. Questo lo mettiamo in atto ogni volta che facciamo qualcosa con consapevolezza. Now, when it came to specific teachings, there are many in the discourses on how to develop the beautiful mind. E per quanto riguarda gli insegnamenti specifici, nei discorsi vengono date istruzioni su come sviluppare questa mente bella, meravigliosa. When he gave a talk to lay people, he always began with generosity. Quando il Buddha faceva dei discorsi ai laici, cominciava sempre con la generosità. Then he would talk about morality, not doing harm. Poi parlava della moralità, cioè il non fare del male. Then he would talk about various good deeds that would lead to happy rebirths. E poi parlava di buone azioni che avrebbero portato a delle rinascite felici. And when he felt the people were ready, he would hit them with the Four Noble Truths. Quando percepiva che le persone erano pronte, allora le colpiva con le quattro nobili verità. But it's interesting that he begins with generosity. Ma è interessante il fatto che cominci con la generosità. He points out that even a thief can be generous. E quindi lui diceva che anche un ladro può essere generoso. Yes, having taken what you have, he can be very generous to people who love. Avendo preso quello che avevi tu, è molto generoso, poi potrebbe darlo ad altri. Generosity. When we are generous, either with our wealth or our time. Quando siamo generosi, o con la nostra ricchezza, con il nostro tempo. What we're actually doing is renouncing. We're giving up what we could have done for ourselves with our money and with our time. È un atto di rinuncia. Noi rinunciamo a quello che avremmo potuto fare con i nostri soldi e con il nostro tempo per noi stessi. And one way to develop this generosity is to contemplate gratitude. Un modo per sviluppare la generosità è contemplare la gratitudine. When we feel grateful to somebody, we want to repay them. Quando ci sentiamo grati, riconoscenti nei confronti di una persona, vogliamo ripagarla. On a personal level, this can still be a little to do with attachment. A livello personale, questo potrebbe ancora avere a che vedere con l'attaccamento. But when it moves out into a universal sphere, then gratitude leads to a much deeper sense of generosity. Ma quando l'applichiamo ad una sfera più universale, allora questo senso di gratitudine può svilupparsi in generosità. It is such that in Europe now we very rarely suffer from hunger. Per esempio in Europa adesso molto raramente le persone soffrono la fame. And when we consider all the work that goes into producing food that ends up on the supermarket. Se pensiamo tutto il lavoro che va nel produrre il cibo che finisce nei supermercati. Then there's a sense of gratitude towards a society that can so organize food like this for us. Allora può sorgere un senso di gratitudine per un tipo di società che è così organizzata e riesce a produrre questo cibo per noi. Even if they're making a lot of money. Anche se ciò facendo si fanno un sacco di soldi. Then of course when you hear that people are going hungry, about 1 billion people they say are undernourished. Certo che quando poi si sente che ci sono ancora tante persone che muoiono di fame, dicono che c'è un miliardo di persone che è sottonutrito. Then of course There's a movement towards generosity of giving something so that people can eat, can be clothed, can be housed, etc., etc. Allora c'è un naturale moto di generosità affinché tutte le persone possano essere nutrite, possano essere vestite o avere un tetto sopra la testa. So gratitude will lead us towards generosity. Quindi questo senso di gratitudine ci porterà verso la generosità. And when we're generous, we're actually developing the quality of renunciation. E quando siamo generosi, stiamo sviluppando la qualità della rinuncia. And renunciation, the path, the spiritual path, is one of absolute renunciation. E il sentiero spirituale è un sentiero di assoluta rinuncia. When now you have to be careful here, renunciation isn't self-mortification. E qui bisogna stare attenti perché la rinuncia non significa l'automortificazione. This, if you go back to an earlier a beginning talk where we talked about the fasting that the Buddha did and the mortifications that he practiced. Ricordate, in uno dei primi discorsi abbiamo parlato del Buddha e del digiuno che faceva, queste pratiche di mortificazione del corpo. This was based on an understanding that the body is what's holding the soul from rising to heaven. E questa era basata sull'idea che il corpo è ciò che trattiene l'anima dal andare in cielo, praticamente, da elevarsi in cielo. The body was in fact a manifestation of bad karma. Il corpo, infatti, era una manifestazione di un cattivo karma. But renunciation has nothing to do with the body. Ma la rinuncia non ha niente a che vedere col corpo. It's all to do with attachment. E invece ha completamente a vedere con l'attaccamento. So when we say that the spiritual path is about renunciation, we mean undermining all attachments and wrong identity. Quando diciamo che il sentiero spirituale riguarda la rinuncia, significa che andiamo proprio a sradicare tutto quello che riguarda l'attaccamento e l'identità. So we find when we're doing something for somebody. Allora, quando facciamo qualcosa per qualcun altro. So here somebody might say to us, I'm decorating this weekend, you know. I'd be very grateful for a hand. Per esempio, qualcuno ci dice, io questo weekend devo dipingere la casa. Sarei molto grato se qualcuno mi desse una mano. And without thinking, you say, yeah, oh, I'll come Saturday. E senza pensare, dice, sì, vengo io, vengo sabato. And then afterwards, you think, why did I say that? E poi dopo dice, cavolo, perché l'ho detto? So, I don't want to go. I don't want to go. So I ring them up and say, I'm not feeling very well. Yeah. Well, my grandmother died, you know. Mia nonna è morta. Just anything not to go. Qualsiasi scusa pur di non andare. So I think this often happens to us, yeah? Penso che questo ci capiti spesso. But if we... if we actually make it, if we think about it and consider it and say, well, you know, I can spend an afternoon helping. Però se ci pensiamo, allora possiamo dire, ma sì, posso anche dedicare un pomeriggio ad aiutare un amico. Then, of course, it's all to do with, you know, friendship and support and everything else. And then it's a beautiful thing. One enjoys it. Ovviamente poi ha a che vedere col sostegno, con l'amicizia. E tutte queste qualità sono delle belle cose. Uno le può apprezzare. There are, you know, I mean, one wants to help, and sometimes we make the mistake of presuming that we know what the other person wants. Poi noi spesso vogliamo aiutare e facciamo l'errore di supporre di sapere quello che l'altra persona vuole, di cosa ha bisogno. So it may be that a friend is sick. Può darsi che l'amico sia malato. And you might take them along some special chicken soup. E magari vi portate, che ne so, una minestra di pollo particolare. Because you've been told this is very good for sick people. Perché vi è stato detto che questo fa molto bene alle persone malate. So you go, you see, and you say to the person, look, I brought you some chicken soup. Allora andate lì e dite a questa persona, a questo amico malato, guarda, ti ho portato della minestra di pollo. Ah, this will do you good. Questo ti farà bene. Sì. And the person says, oh, no, you know, my stomach is not, I can't have it. La persona dice, no, guarda, lo stomaco è subbuglio, non riesco proprio a mangiarlo. And so you say to yourself, oh, no problem, it's okay, no problem. Allora voi vi dite, ma no, nessun problema, non importa. But inside you're saying, I want to have a scribble tonight. Ma dentro di voi dite, ma solo, io mi sono fatto un masto fare questa minestra di pollo e lui manco la mangia. And then to add insult to injury. Sì, è un modo di dire, per aggiungere un insulto alla ferita. They say, look, per peggiorare la situazione. They say to us, look, you could do something for us. Allora, questa persona dice, beh sì, potresti fare qualcosa effettivamente. Yes, anything. Certo, qualsiasi cosa. Yeah. Could you clean my toilet? Non è che potresti pulirmi il bagno. They say, yes, I can do that. Ah, sì, certo, lo posso and fare. Inside, I've come all this way. E dentro di voi diciamo, no, sono venuto fin qui. So, e mi tocca pulire il cesto. This is the complex of a do-gooder. We call them a do-gooders. Questi in inglese si chiamano do-gooders, quelli che fanno il bene, in italiano non suona tanto bene. E quindi è il complesso delle persone che vogliono sempre fare del bene. Well, a do-gooder... Benefattori, no. No, benefattori, no. A do-gooder is a person who does you the good they want to do you. Quindi questa parola in inglese do-gooder sono quella categoria di persone che vogliono fare del bene, però solo in termini di quello che loro credono che sia il tuo bene. No. Cioè quello che tu pensi che li faccia bene. No. Yeah, well, it's not quite the same. It's a do-gooder is someone who wants to do you the good. Mm-hmm. Quindi un do-gooder è una persona che vuole farti il bene. To you. A te, sì, farti il bene. That they want to do to you. E che loro vogliono fare a te. Whether you want it or not. Che tu lo voglia o no. Non ho detto così prima. Sì. Devi dire no. Sì? Detto così. Scusi. I should trust you. I don't trust myself. Well, no. I misunderstood something. In which case, the person really is only self-serving. In realtà, la persona facendo così è solo una persona che serve se stesso. It might be because they need to be wanted. Forse perché hanno bisogno di essere utili, desiderati. So, when we say service, you're always putting the other person first. Quindi quando parliamo di servizio, mettete sempre l'altra persona in primo piano, prima di tutti. So, from a sense of service, you always ask the other person what do they want. Quindi, se è vero senso di servizio, chiederete all'altra persona cos'è che vuoi. And if you can do it, you do it, and if you can't do it, you can't do it. So, se lo puoi fare, lo fai, se non lo puoi fare, non lo fai. So, it's good to look at our working life, which is, it takes our major energy in life. Quindi è sempre utile guardare la nostra vita lavorativa, perché è quella che ci risucchia, che ci prende più energia nella vita. And to recognize that this can also be, part of the path. E riconoscere che questo può essere parte del sentiero. Now, in Mahayana Buddhism, they defined six qualities that we translate as perfections. Nel buddismo Mahayana indicano sei qualità che noi possiamo chiamare le sei perfezioni. And one of them was generosity. E una era proprio la generosità. Perfection translates the word paramita. Perfezione è la traduzione di paramita. So paramita means to the other shore. E paramita significa sull'altra sponda. So the Buddha, all'altra sponda. Sì. So the Buddha always talks about Nibbana as being an island. Il Buddha parla sempre del Nibbana come se fosse un'isola. Not always. He talks about Nibbana as being an island. Quindi, sometimes. Sì, a volte definisce il Nibbana come un'isola. So these are the things that take you across to the other shore. Quindi queste sono qualità che vi permettono di attraversare e arrivare all'altra sponda. The word perfection is not quite right because these things aren't so perfection, they're not perfected as such. Perché la parola perfezione non va così bene, perché non è che queste sono cose di per sé perfette o perfezionate. Yeah, it's not as though there is a perfect generosity. In altre parole, non è che ci sia una generosità perfetta. What there is an act, a good or a complete act of generosity. Quello che ci può essere è un atto buono o completo di generosità. So in Theravada they came up with 10 parameters, 10 perfections. Nel Theravada invece praticamente ne hanno trovate 10 di queste paramita o perfezioni. Which proves we're the better. Questo dimostra che noi siamo la scuola migliore, la forma migliore. So So the first one is generosity. Quindi la prima, la generosità. Then they talk of morality. Poi si parla della moralità. So, you know, this business of not doing what we ought not to do in order to do what we ought to do. E quindi quello che dicevamo, cioè di non fare quello che non dovremmo fare per poter fare quello che invece dovremmo fare. Renunciation, which questa we talked about. La terza, la rinuncia. Wisdom, which comes, remember, in three modes. Quindi la saggezza, che ricordate, viene in tre modalità. It's the wisdom that we receive. Quella che riceviamo. The wisdom that becomes our own intellectual knowledge because we think about it. Quella che diventa la nostra conoscenza intellettuale perché ci pensiamo su. And the wisdom which is gained through direct insight. E invece la saggezza che si ottiene attraverso un insight diretto. The next one is effort, energy. Quello dopo è lo sforzo o energia. Mm. Just the right amount of effort to complete, to finish the task. Quindi lo sforzo necessario per terminare il compito. Mm. Without effort, nothing happens. Senza sforzo non capita, non succede niente. Mm. So in the morning when I say, make your resolutions for the day. La mattina io vi dico di esprimere un proposito per la giornata. So, I mean, my own personal one usually is, what is my usual one? It just shows you how often I say it. It shows you what? It just shows you how often I say it. No, may I live wisely with a good heart. That's the normal thing. Allora, il proposito usuale di Bante è quello che io possa vivere saggiamente con un buon cuore. Now, if I believe that just making that is going to do it, then, you know, I'm in a big delusion. Se io pensassi che il fatto solo semplicemente di dirlo produrrà un effetto, allora io vivo in una grande illusione. Ah, so all day long I ought to be repeating this to myself. E quindi dovrei ripeterlo durante la giornata. Mm. But then there's patience. Poi c'è la pazienza. Patience, the Buddha says, is the greatest form of ascetic practice. Il Buddha dice che la pazienza è la più grande forma di pratica ascetica. Patience is the ability to bear suffering. Perché la pazienza è l'abilità, la capacità di sopportare la sofferenza. Mm, to bear with the uncomfortable. Di sopportare ciò che crea disagio. Oh. It might be a person who is in a sense undermining you or just difficult. Potrebbe trattarsi di una persona che in qualche modo vi sta attaccando oppure semplicemente difficile. Mm. That doesn't mean to say you can't defend yourself, but there's no anger. Questo non vuol dire che voi non possiate difendervi, però significa che non c'è rabbia. Ah, you see. Patience undermines all anger. Perché la pazienza sradica, va a intaccare proprio la rabbia, tutta la rabbia. The Buddha gives an example of somebody who he asks, he says, if bandits were to come and cut you from limb to limb. Quindi il Buddha fa questo esempio sostiene questa cosa rispetto alla pazienza. Dovessero attaccarti dei banditi e tagliarti arto dopo arto. And if anger at any time should arise in you, e dovesse sorgere in qualsiasi momento la rabbia dentro di te, you're not a disciple of mine. Non sei un mio discepolo. Ah. When I said this in one talk, somebody said the Buddha had a very good sense of humor. Io ho detto questa cosa in un discorso, una persona mi ha detto, beh, il Buddha aveva un buon senso dell'umorismo. But I think he actually meant it. Io penso che volesse proprio dire così, era proprio la sua intenzione. Patience, luckily for us, the word, I'm sure some of you know, patience comes from the Latin, patios, means to suffer. Come sapete, molti di voi sanno, pazienza viene dal latino patio, che significa soffrire. To suffer. So patient forbearance. Any time we're in a situation which is creating irritation or some aversion, you see, just to begin by, you know, undermining that by opening up to the situation as it is. Quindi ogni volta che c'è dell'irritazione o della sofferenza, si tratta semplicemente di aprirsi a questa situazione così com'è. Mm. Patient forbearance. E quindi pazienza e forbearance vuol dire anche un po' resistenza. Truthfulness. E poi l'onestà, la sincerità. So we've had that with right speech. Questo ne abbiamo già parlato con la retta parola. This determination is really another way of saying strong committed energy. Quindi questa altra qualità che è la determinazione si può intendere come una forte energia impegnata. Mm. Determination. Metta, which is of course loving kindness, which we'll do tomorrow. Poi c'è la metta, che è la gentilezza amorevole, e la faremo domani. And the final one, equanimity. E l'ultima di paramita è l'equanimità. And Jnanaponika Thera, in his book. Jnanaponika Thera nel suo libro. The Heart of Buddhist Meditation. Il cuore della meditazione buddista. Which is still a classic, it's worth reading it. È ancora ritenuto un classico, vale la pena di leggerlo. It's either in that book or in The Vision of the Dhamma, another book he wrote. Potrebbe essere o in quel libro o in un altro libro che ha scritto che si chiama La Visione del Dhamma. Mm. He points out that equanimity is the greatest virtue in the Buddha's understanding. Lui dice che l'equanimità è la più grande virtù secondo gli insegnamenti del Buddha, nella comprensione del Buddha. Because equanimity stops all these following falling into their what we call their subtle enemy. All the virtues from falling into subtle energy, a subtle enemy. Perché è proprio l'equanimità che impedisce a tutte le altre qualità di cadere in questo nemico sottile. So it's equanimity that stops love falling into attachment. Per esempio, è l'equanimità che impedisce all'amore di trasformarsi in attaccamento. Compassion from falling into grief. La compassione. Cioè, impedisce la compassione di trasformarsi in pena, diciamo. Joy into excitement, la gioia in eccitazione, courage into foolhardiness, il coraggio in spregiudicatezza, no? Too much, sì, quando uno è troppo spavaldo, no? Spavalderia, ecco. So you can take any virtue and you'll see it has some corruption. Potete prendere qualunque di queste virtù e vedrete che ha una sorta di corruzione, non si dice in italiano, un inquinamento, può essere inquinata, ecco, non pura. And even equanimity, unless we're equanimous, falls into indifference. Anche l'equanimità, se non siamo equanimi, può trasformarsi in indifferenza. You know, there's a lot to sort of contemplate and think about when it comes to putting our practice into ordinary daily life. Quindi ci sono molti aspetti da contemplare, da prendere in considerazione quando vogliamo portare la nostra pratica nella vita quotidiana. Mm. And now there's many books around. Ci sono tanti libri adesso. Mm. So it's one thing that we can do is at the end of the day, you see, spend a little time just thinking about what's happened during the day. Alla fine della giornata possiamo sederci, prenderci un po' di tempo solo a riflettere su cosa è successo durante la giornata. And just as we do at the end of a sitting, it's not about judging ourselves. Così come facciamo alla fine della seduta, non si tratta di giudicare noi stessi. When we say things like I'm stupid or I was fantastic, when the I comes into it, then usually there's some self-judgment going on. Quando diciamo sono stato stupido oppure quanto sono stato fantastico, quando usiamo questo io, anche se in italiano il pronome non si usa tanto, ma quando c'è l'io coinvolto, there's some corruption. C'è una sorta di corruzione, come se fosse inquinato. But when we talk about the act, you see, what we actually did, then we can see that this was either a wise act or slightly unwise, wholesome, unwholesome, and then we remind ourselves. Ma quando pensiamo all'atto, allora non c'è il giudizio, ecco, prima c'era il giudizio, non c'è il giudizio, noi possiamo capire se è una cosa salutare o non salutare, quindi possiamo ricordarlo a noi stessi. And we slowly encourage ourselves. E ci incoraggiamo lentamente, un po' per volta. So, we talked about the Eightfold Path a little bit. Abbiamo parlato un po' dell'ottuplice sentiero. And these ten perfections. E queste 10 perfezioni. So I think that's enough. Credo che basti così. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. By turning your daily life into a spiritual practice. Trasformando la vostra vita quotidiana in una pratica spirituale. May you attain the end of suffering, Nibbana, sooner rather than later. Che voi possiate raggiungere la fine della sofferenza, il Nibbana, prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu, sadhu.